Non vi piacerebbe, signore, intrattenere l'istituto sul prezzo del pane durante la fronda? Chiese timidamente lo storico della fronda al signor di Nurpois. La cosa potrebbe riscuotere un notevole successo, il che significava potrebbe fare a me una straordinaria propaganda, aggiunse sorridendo l'ambasciatore con una pusillanimità, ma anche una tenerezza che gli fece sollevare le palpebre e scoprire gli occhi, grandi come un cielo. Mi sembrava d'averlo già incrociato quello sguardo, eppure vedevo lo storico quel giorno per la prima volta. Di colpo ricordai. Avevo sorpreso lo stesso sguardo negli occhi di un medico brasiliano che sosteneva di poter guarire i soffocamenti del genere di quelli di cui soffrivo con certe assurde inalazioni di essenze vegetali. Siccome, per ottenere che mi prendesse in cura, gli avevo detto che conoscevo il professor Cottard, lui mi aveva risposto, come fosse nell'interesse di Cottard: questo trattamento, se vorrete parlargliene, potrebbe fornirgli lo spunto per una comunicazione clamorosa all'Accademia di Medicina. Non avevo osato insistere, ma mi aveva rivolto lo stesso sguardo timidamente interrogativo, interessato e supplichevole, che mi aveva appena colpito nello storico della fronda. Sicuramente quei due uomini non si conoscevano e si assomigliavano ben poco. Ma le leggi psicologiche tendono, come le leggi fisiche, a una certa generalità. E in presenza delle stesse condizioni necessarie, un medesimo sguardo si accende in animali umani diversi, così come uno stesso cielo mattutino illumina luoghi della terra assai distanti l'uno dall'altro e l'uno all'altro invisibili. Non sentì la risposta dell'ambasciatore, perché tutti i presenti si erano avvicinati a Madame de Villeparisis per vederla dipingere, provocando un po' di brusio. «Sapete di chi stiamo parlando, Bazin?» chiese la duchessa a suo marito. «Non mi è difficile indovinarlo», rispose il duca. «Decisamente non è che ella si possa chiamare un'attrice di razza. Penso», continuò Madame de Guermantes rivolgendosi al signor d'Argencourt, «che non riuscireste mai a immaginare nulla di più risibile!» «Direi quasi sullazzevole!» intervenne il signor di Guermantes, il cui bizzarro vocabolario consentiva in pari tempo alle persone di mondo di sostenere che non era uno sciocco e ai letterati di considerarlo un perfetto imbecille. «Non riesco a capire!» riprese la duchessa. «Come abbia fatto Robert a innamorarsi di lei?» «Oh, lo so che queste cose non bisogna mai discuterle», aggiunse con una graziosa smorfia di saggezza filosofica e di disincanto sentimentale. «So che chiunque può amare qualunque cosa, ed è proprio questo», precisò, giacché se ironizzava ancora sulla nuova letteratura, questa, forse nella volgarizzazione dei giornali o attraverso certe conversazioni, si era un po' infiltrata in lei. «E questo è il bello dell'amore, ciò che lo rende appunto misterioso. Misterioso? Ah, vi confesso che è un po' forte per me, cara cugina», disse il conte d'Argencourt. «E invece sì, è molto misterioso l'amore», replicò la duchessa con un dolce sorriso amabilmente mondano, ma anche con la convinzione intransigente di una wagneriana che spiega a qualcuno del suo ambiente come nella Valchiria non ci sia soltanto del rumore. «E poi, in fondo, non sappiamo perché una persona ne ama un'altra. Forse per tutt'altre ragioni da quelle che crediamo noi», aggiunse sorridendo e ripudiando inopinatamente, con la sua stessa interpretazione, l'idea che aveva appena enunciata. «In fondo, poi, non sappiamo niente di niente», concluse in tono di stanco scetticismo. «È anche più intelligente, non vi pare? Non bisogna mai discutere le scelte degli innamorati». Ma appena formulato questo principio, lo contraddisse, criticando la scelta di Saint-Lieu. «In ogni caso, trovo stupefacente che si possa vedere del fascino in una persona ridicola». Sentendo che si parlava di Saint-Lieu, e intuendo che questi doveva essere a Parigi, Bloch si mise a parlarne male, con una tale carica di ferocia che tutti ne furono disgustati. Il mio ex compagno cominciava a nutrire degli odi ed era evidente che pur di sfogarli non si sarebbe fermato di fronte a nulla. Partendo da due assiomi, quello della propria elevata moralità e l'altro secondo il quale l'intera razza dei frequentatori della Boulier, un circolo sportivo da lui ritenuto elegante, meritava la galera, tutti i colpi che poteva mettere a segno contro costoro gli sembravano meritori. Giunse persino a parlare, una volta, di un processo che voleva intentare ad un suo amico della Boulier. Nel corso di questo processo, egli era deciso a deporre il falso, ma in modo che l'imputato non fosse in grado di smentirlo. Bloch, che peraltro non realizzò mai questo progetto, meditava così di trascinarlo alla disperazione e al terrore. Che male c'era, dal momento che l'uomo cui voleva nuocere aveva in testa solo la mondanità e l'eleganza, era uno della Boulier e contro gente di quella risma tutte le armi sono lecite, soprattutto a un santo come lui, Bloch. Eppure pensate a Swann, obiettò il signor d'Argencourt, il quale aveva finalmente afferrato il senso delle parole di sua cugina e, colpito dalla loro ragionevolezza, cercava di ricordare chi, per esempio, si fosse innamorato di qualche persona che a lui non sarebbe piaciuta. «Ah, no! Quello di Swann è un caso completamente diverso!» protestò la duchessa. «Era stupefacente, certo, perché si trattava di un'autentica imbecille, ma non era ridicola ed è stata anche molto bella!» borbottò Madame de Villeparisis. «Come? Non la trovavate bella?» Invece sì, aveva delle cose incantevoli, occhi bellissimi, bei capelli, e si vestiva e si veste ancora stupendamente. Adesso immonda, lo ammetto, ma è stata una donna affascinante. Non per questo m'ha fatto piacere che Charles l'abbia sposata. Era così perfettamente inutile. La duchessa non pensava ad aver detto qualcosa di speciale, ma siccome Argencourt scoppiò a ridere, lei ripeté la frase, sia che la trovasse divertente, sia che semplicemente trovasse gentile il cugino ridanciano, al quale rivolse un'occhiata carezzevole per aggiungere, a quello dello spirito, l'incanto della dolcezza. «Eh sì», riprese, «non ne valeva la pena, siete d'accordo? Ma lei, in fin dei conti, non era sprovvista di fascino, e io capisco benissimo che si potesse amarla, mentre l'amica di Robert, ve l'assicuro, fa crepare dal ridere». Lo so, mi si può opporre la vecchia solfa di Augier, che importa la bottiglia all'importante l'ebbrezza. D'accordo, Robert avrà anche l'ebbrezza, ma non si può dire che abbia dato prova di buon gusto nella scelta della bottiglia. Pensate che pretendeva la sciagurata che io le facessi montare una scala nel bel mezzo del mio salotto. Roba da niente, non vi pare? Quanto a lei, m'aveva preannunciato che si sarebbe distesa a bocconi sui gradini. D'altronde, se aveste sentito quello che recitava, io ne conosco una sola scena, ma mi sembra impossibile immaginare qualcosa di più atroce. Il titolo è Le sette principesse. Le sette principesse. Oh, che snobismo, esclamò il signor d'Argencourt. Ma aspettate, lo conosco per intero quel lavoro. L'autore l'ha mandato al re che non ci ha capito nulla e mi ha chiesto di spiegarglielo. «Non sarà per caso del Sarpe Ladin?» chiese lo storico della fronda con uno sforzo di finezza e di attualità, ma a voce così bassa che la domanda passò inosservata. «Ah, conoscete le sette principesse?» riprese la duchessa rivolta ad Argencourt. «I miei complimenti! Io ne conosco solo una, ma basta togliermi ogni curiosità di conoscere le altre sei. Se assomigliano tutte alla mia, stiamo freschi!» «Che ignorante!» pensavo io, irritato dalla gelida accoglienza che mi aveva riservata. Assaporavo una sorta di aspra soddisfazione nel constatare la sua totale incomprensione dell'opera di Maeterlinck. Ed è per una donna di questa levatura che ogni mattina faccio tanti chilometri. Ci vuole una bella indulgenza. Sono io adesso che non vorrei più saperne di lei». Tali erano le parole che dicevo a me stesso. Erano l'antitesi del mio pensiero. Erano parole come se ne dicono tanto per dire, nei momenti in cui, troppo agitati per restare soli con noi stessi, sentiamo il bisogno, in mancanza d'altri interlocutori, di dialogare col nostro io senza alcuna sincerità, come con un estraneo. «Non riuscirei mai a darvene un'idea», continuò la duchessa. «Era da sbellicarsi. A dir la verità, non ci siamo tirati indietro. Forse abbiamo persino esagerato. La piccina non l'ha certo gradito e Robert, in fondo, me ne serba rancore. Del resto, meglio così. Se le cose fossero andate bene, la signorina magari sarebbe tornata. E mi chiedo fino a che punto Maria in Arni avrebbe avuto piacere». Veniva chiamata così, in famiglia, la madre di Robert, Madame de Marsan, vedova di Hénard de Saint-Lieu, per distinguerla da sua cugina, la principessa di Guermantes Baviera, anche lei Maria, al cui nome i nipoti, cugini e cognati aggiungevano, a scanso di confusione, o il nome del marito o un altro dei suoi nomi di battesimo, ottenendo Marie Gilbert oppure Marie Edwige. Il giorno prima c'era stata una specie di prova generale, una cosa stupenda, proseguì ironicamente Madame de Guermantes. Figuratevi che diceva una frase, ma neanche un quarto di frase, e poi si fermava. E non diceva più niente, non esagero, per 5 minuti. «Oh, oh, oh!» esclamò il signor d'Argencourt. «Mi sono permessa, con tutta la gentilezza del mondo, di insinuare che questo forse avrebbe destato qualche stupore. Mi ha risposto testualmente: bisogna recitare ogni frase come se la si stesse componendo. Se ci riflettete un attimo, è fenomenale come risposta». «Io credevo che i versi almeno li sapesse recitare», osservò uno dei due giovani gentiluomini. «Ma non sa nemmeno cosa siano», ribatté Madame de Guermantes. «Del resto non ho avuto bisogno di sentirla. Mi è bastato vederla arrivare con i gigli. Ho capito subito che non aveva talento quando ho visto i gigli». Tutti risero. «Zia, non sarete arrabbiata con me per lo scherzo dell'altro giorno a proposito della regina di Svezia. Son qui per fare ammenda». «No, non sono arrabbiata. Ti do persino il permesso di mangiare se hai fame». «Coraggio, signor Vallener, fate la padroncina di casa», aggiunse Madame de Villeparisis rivolta all'archivista, rinnovando una facezia consacrata. Il signor di Guermantes, che si era accasciato in una poltrona, il cappello posato accanto a sé sul tappeto, si raddrizzò ed esaminò con aria soddisfatta i vassoi di pasticcini che gli venivano presentati. «Ma volentieri, ora che comincio a familiarizzarmi con questa nobile assemblea, accetterò un babà. Hanno un aspetto eccellente». «Il signore fa meraviglia la sua parte di padroncina», disse il signor d'Argencourt, riprendendo, per spirito d'imitazione, la facezia di Madame de Villeparisis. L'archivista presentò il vassoio dei pasticcini allo storico della fronda. «Ve la cavate davvero a meraviglia», disse questi per timidezza e per accattivarsi la simpatia generale, e lanciò una furtiva occhiata di connivenza a quelli che l'avevano preceduto. «Ditemi, zia cara», chiese il signor di Guermantes a Madame de Villeparisis, «chi è quel signore di bell'aspetto che usciva mentre io entravo? A quanto pare lo conosco, visto che mi ha fatto un gran saluto, ma non sono riuscito a ravvisarlo. Con i nomi, lo sapete, sono un vero disastro. È una cosa piuttosto spiacevole», aggiunse con aria soddisfatta. «È il signor Le Grandin. Ah, la madre di una cugina di Orient, se non sbaglio, è nata Grandin. Ma sì, certo, sono dei Grandin delle Prévier». «No, no», rettificò Madame de Villeparisis. «Quelli non c'entrano. Sono Grandin e basta, Grandin d'un bel niente. Ma non vedono l'ora di diventare Grandin di qualcosa, una cosa qualsiasi. Ha una sorella costui che si chiama Madame de Cambremé». «Ma via, Bazin, lo sapete benissimo di chi sta parlando la zia», intervenne indignata la duchessa. «È il fratello di quell'enorme erbivora che avete avuto la balzana idea di spedirmi l'altro giorno. È rimasta per un'ora, stavo per impazzire. Ma prima avevo pensato che la pazza fosse lei, vedendomi arrivare in casa una persona che non conoscevo e che assomigliava a una mucca». State a sentire, Oriane. M'aveva chiesto in che giorno ricevevate. Non potevo essere tanto scortese da non dirglielo. E poi via, state esagerando, non sembra una mucca, aggiunse il duca in tono lamentoso, ma non senza gettare sui presenti uno sguardo sorridente e furtivo.